Pablo Picasso, raccontato da Salvatore Carrubba. Tra le più memorabili mostre di Picasso ci fu certamente quella del 1953 a Milano. Qui l'artista accettò di esporre Guernica, allora ospitato al MoMA, dove per sua volontà il quadro avrebbe dovuto attendere la fine del regime franchista. A convincere il pittore a far spostare il grande quadro fu l'ambientazione nel drammatico Salone delle Cariatidi, che portava ancora fresche, e mantiene ancora oggi, per scelta, le ferite drammatiche del bombardamento dell'agosto di 10 anni prima. L'emozione suscitata dal quadro fu enorme, basti pensare che senza Guernica la mostra ebbe a Roma 40.000 visitatori, mentre a Milano furono 200.000. Guernica ha e mantiene una fortissima carica ideologica, non a caso era stato il Partito Comunista a spingere per l'organizzazione della mostra, ma è entrato nella storia dell'arte per essere una testimonianza fondamentale di ciò che chiamiamo moderno. Lo ha spiegato bene Julian Bell nel suo libro What is Painting, tradotto da Mondadori Electa, nel quale gli ricorda come sia stato proprio quel quadro a fare dell'arte moderna un'arte liberata dalla solidità narrativa e rappresentativa. E allora ci spieghiamo come Guernica sia diventato un totem della civiltà contemporanea. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.